Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del cacciatore di libri dedicata ai libri natalizi, libri che possiamo regalare in questo periodo, che magari chissà ci avranno anche regalato, avremo trovato sotto l'albero. Una puntata speciale anche perché siamo in compagnia di Stefano Salis del Domenicale del Sole 24 Ore. Ciao Stefano. Ciao, un saluto a tutti. Allora, tu sei quello che io definisco ormai da anni il mio ariete nel mondo dell'editoria, perché ci aiuti a trovare un po' con una lanterna quelle che sono le chicche che ci sono appunto nel mondo dell'editoria. Ma ci provo e vedo che tu le apprezzi, quindi mi fa piacere. Sì, anche l'epiteto. Poi a Natale dobbiamo essere buoni. Certo, sempre, anche non solo a Natale. E quindi ci scambiamo i complimenti. Volentieri. Allora Stefano, abbiamo dedicato questa puntata ai libri natalizi, insomma chiamiamoli così, però sono libri che sono normalmente in libreria, non sono libri che parlano del Natale, ma sono libri che magari sono usciti in questo periodo, che magari vengono spinti particolarmente dalle case editrici in questo periodo come strenne natalizie. Partiamo dal primo libro, inizia tu, facciamo uno a testa, mettiamola così. Che libro ci proponi? Va bene, allora propongo quello che io ho definito nel Sole 24 Ore domenica il libro dell'anno per quanto mi riguarda. Si tratta di un libro di Pablo Echauren, di una piccola casa editrice di Macerata che si chiama Biblo House e si intitola Gli Introvabili, Futurismo Shock. L'ho definito il libro dell'anno per chi come me è un bibliofilo incallito e per chi ama i libri. Pablo Echauren è un grande collezionista di libri, soprattutto del futurismo, e siccome ha tutto e si era stancato di sentir parlare di libri introvabili, qui ha descritto 14 libri che sono letteralmente introvabili perché non esistono, se li ha inventati lui, ma sono un perfetto calco di quello che potevano essere dei libri dell'epoca futurista. È una delizia per chi ama i libri, è un buon inizio. È un piccolo libretto, tra l'altro lo vedo qua, veramente sono poche pagine, vediamo quante sono, saranno un centinaio di pagine, insomma si legge tranquillamente in un'oretta, in una giornata, in un pomeriggio invernale. Sì, in un'oretta bevendo un caffè o un tè, e si ride molto perché Pablo è stato bravissimo nelle schede a simulare quel discorso che si faceva all'epoca futurista, anche della mascolinità, prendendoli in giro. È un libro molto ironico, molto divertente. E allora, visto che tu insomma proponi una cosa divertente, io rispondo con una cosa altrettanto divertente. Sarà un po' il libro di questo periodo. Hanno messo insieme Luciana Littizzetto e Franca Valeri, li ha messi insieme in A nel libro che si intitola L'educazione delle fanciulle. Di che cosa possono parlare la Littizzetto e la Valeri? Beh, ovviamente parlano di uomini, di donne, dell'amore, insomma di tante cose in modo comico, e quindi sicuramente è un libro che ci potrà far passare sicuramente delle ore piacevoli. Altro libro che ci proponi, Stefano? Allora, un'altra proposta, questa è un po' più seriosa, ma per chi è amante della musica trovo che sia un libro dei più interessanti usciti quest'anno. L'ho scritto Richard Williams e si intitola The Blue Moment, così come si intitolava in inglese, non è stato tradotto il titolo ed è pubblicato dal Saggiatore. È un libro tutto su un disco, cioè Kind of Blue di Miles Davis, vecchio pallino mio e di Luca Formenton, che è l'editore del Saggiatore. Però è un libro molto interessante, molto ben scritto, perché racconta come un solo disco ha cambiato la cultura contemporanea. Noi fan siamo convinti che lo abbia fatto, ma anche chi non è così fan di Miles Davis capirà quali sono i motivi per i quali è possibile fare queste iperbole. Io rispondo ancora con un libro divertente, insomma, che ci fa sorridere. Alan Bennett, te la ricordi? Tu l'avevi letta, La sovrana lettrice, era un libro straordinario. L'avevo letto, avevo anche detto che, anche questo sul Domenicale del Sole 24 Ore, che era finalmente, avevamo trovato tutti noi bibliofili, il libro che ci avrebbe fatto innamorare dei libri, perché era un libro talmente divertente, incentrato sulla figura dei lettori, che era da amare e basta. Da amare e basta, infatti. Ma oltre alla sovrana lettrice potete trovare in libreria l'ultimo di Alan Bennett, sempre pubblicato da Delphi, che si intitola Due storie sporche. Sono due racconti che fanno ridere, sorridere, ma come sempre con Alan Bennett si ha anche un sottofondo amaro. Sì, è quasi sempre un humor nero quello che lui distilla, è tipicamente inglese ed è un tipo di scrittura che purtroppo da noi in Italia manca. Ecco, un libro anche che vorrei segnalare per questo periodo, anche perché questo sì è un libro anche natalizio, perché parla del periodo di Natale, è di Daniel Glattauer e si intitola In città zero gradi, pubblicato da Feltrinelli. Glattauer è l'autore di quello che insomma molti ricorderanno, Le ho mai raccontato del vento del nord e La settima onda. È un romanzo che è ambientato appunto nel periodo natalizio, il protagonista è Max e è fermamente diciamo intenzionato a lasciarsi alle spalle un periodo difficile per fuggire in un paradiso esotico. Purtroppo però dice che, se leggo dalla bandella del libro, non ha fatto i conti con Cart, che è il suo cane, quindi vedremo che succederà in questo libro, che è diviso proprio per date, e vedo 6 dicembre, 10 dicembre, insomma un libro ambientato assolutamente in questo periodo. Sì, tra l'altro funzionano sempre molto bene i libri che hanno come protagonista un animale, un cane. Anche i film che hanno un cane come protagonista funzionano sempre benissimo. Gli attori dicono a Hollywood di non recitare mai accanto a un bambino o a un cane, perché insomma sia sempre la peggio. Sì, appunto. Poi spesso capita anche che gli attori recitino da cani e questo non è bello. E questo è un altro paio di maniche. Con che libro tu rispondi, Stefano? Guarda, rispondo con un libro che mi è stato molto caro, uscito all'inizio di quest'anno, si intitola Sillabario della memoria di Federico Roncoroni, pubblicato da Salani. È un libro che non è un romanzo, è una collezione di parole. A me piacciono molto le collezioni, i collezionisti, come si può capire. E qui Roncoroni, che è un superbo conoscitore della lingua italiana, ha catalogato tutta una serie di parole che non è necessario che siano delle parole ormai perse o poco note o sconosciute, sono semplicemente delle parole che fanno riaffiorare una memoria, un clima, un'atmosfera di un tempo andato, rilette tutte con una grazia da grande scrittore. Trovo che questo tipo di libri, che è abbastanza comune in Italia in questi ultimi anni, siano particolarmente azzeccati e funzionino molto bene per i forti lettori e anche per chi vuole avvicinarsi, diciamo così, alla romanzo senza avere a che fare con un romanzo. A proposito di tempi passati che tu adesso citavi, c'è l'ultimo romanzo di Dacia Maraini, La grande festa, pubblicato da Rizzoli, che è un po' un libro di memorie, di ricordi, perché lei appunto racconta, diciamo, le persone che per lei hanno avuto un'importanza affettiva notevole nella sua vita, quindi la sorella Yuki, il padre Fosco Maraini, anche il grande amore della sua vita Alberto Moravia, il carissimo amico Pierpaolo Pasolini. Questo è il libro di Dacia Maraini, appunto La grande festa. Ma vi segnalo anche un altro libro di Murakami Haruki, uno scrittore insomma culto per molti lettori, pubblicato sempre da Einaudi. L'ultimo romanzo si intitola, un titolo strano, 1Q84. Guarda, posso spiegarti perché lo ha fatto Giancarlo Calza per Il Sole 24 Ore domenicale, perché c'è questo titolo? Perché la lettera Q ovviamente non esiste nella giapponese, ma nella traslitterazione il suono della Q è molto simile al numero 9, quindi effettivamente l'omaggio a 1984 di Orwell, che è un po' il sottotesto di questo romanzo, è palese. Da una parte in questo romanzo c'è una donna killer che vendica tutte le donne che hanno subito violenza, dall'altro c'è un altro personaggio che è un ghostwriter che deve riscrivere un libro piuttosto inquietante, insomma atmosfere piuttosto inquietanti in questo romanzo. Sì, è un libro molto particolare e difficile, bisogna anche dirlo. Per chi ascolta, non è proprio la tipica lettura facile natalizia, però siamo di fronte a uno degli scrittori più importanti di questi ultimi anni. Tra l'altro questo libro fa parte di una serie, per cui ci sarà ancora un seguito, ed è un libro che fa discutere, piace o non piace, ma che comunque va letto. Abbiamo pochissimo tempo, Stefano. Un altro titolo? Un libro che io ho adorato, che consiglio veramente a tutti, di Bill Bryson, che aveva fatto un libro bellissimo che si chiamava Breve storia di quasi tutto, e per Guanda ha pubblicato quest'anno Una breve storia della vita privata. Lui parte dalla sua casa, la esplora ambiente per ambiente, la camera da letto, il bagno, la stanza dove si mangia, la cucina, e descrive come nella storia si è arrivati ad avere quell'ambiente fatto così, perché viviamo in questo modo. Un libro molto erudito ma molto leggero, molto bello da leggere. Per chiudere io vi segnalo altri due libri: Il ritorno di Isabella Allende, sempre per Feltrinelli, con Il quaderno di Maya, la storia di una ragazzina che ha vissuto fra alcol e droga e poi invece si trova a vivere in una sorta di paradiso terrestre in un arcipelago cileno, e poi l'ultimo di Gianrico Carofiglio, Il silenzio dell'onda. Protagonista è un carabiniere in congedo che ha fatto l'agente sotto copertura e che adesso va da uno psichiatra per alcuni problemi. Attraverso i racconti con lo psichiatra riusciamo a riscoprire la sua storia passata. Grazie a Stefano Sallis del Domenicale del Sole 24 Ore per Grazie essere stato con noi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri, ma anche i titoli dei libri che abbiamo citato, su www.radio24.it. Buone feste da Alessandra Tedesco.